Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il mercato dei veicoli industriali in Italia ha iniziato a evidenziare segni negativi già dal gennaio del 2019, una tendenza che è andata consolidandosi col tempo. I dati raccolti da UNRAE, l'associazione che riunisce i costruttori esteri, descrivono un settore che dalla crisi finanziaria del 2008 non si è mai completamente ripreso. Rispetto al 2007, i volumi delle vendite dei veicoli industriali sono calate del 66%, ma anche rispetto allo scorso anno il mercato offre numeri preoccupanti. Complice l'epidemia di Covid-19 che ha bloccato tutte le attività produttive, le immatricolazioni dei veicoli superiori alle 3,5 tonnellate, ad esempio, lo scorso aprile sono diminuite di più del 58,4% rispetto all'aprile dell'anno precedente. E se si guarda i primi 4 mesi dell'anno, la dinamica conferma un calo di circa il 25%. Quali sono i problemi principali di questo settore e quali le prospettive di rilancio? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che è stato particolarmente colpito dall'emergenza Covid-19, un mondo che ha continuato a lavorare in queste settimane, in questi mesi per far sì che tutti gli italiani potessero avere nelle loro case tutto ciò di cui avevano bisogno, ma che sta in questo momento scontando anche alcune difficoltà storiche, difficoltà che si riverberano in qualche modo anche sul mondo dei costruttori e non a caso proprio qualche giorno fa la sezione veicoli industriali di UNRAE ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dato un po' di numeri su quella che è la crisi di questo settore in questo momento in Italia, crisi che ha dei risvolti importanti anche sui livelli occupazionali di questo settore nel nostro paese. Di tutto questo parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Allora, dicevamo, anche il mondo dei veicoli industriali e commerciali risente di questa crisi, una crisi di liquidità, una crisi legata ai costi delle imprese di autotrasporto che in queste settimane, in questi mesi hanno continuato a lavorare ed operare, ma tutto questo si riflette anche sul mondo dei costruttori. Che cosa succede in questo mondo? Assolutamente sì, intanto io volevo ringraziare non solo i trasportatori che hanno lavorato 24 ore su 24, ma anche le nostre officine, i nostri meccanici, tutti quelli che erano sul campo, che chiaramente hanno cercato di dare un servizio giusto a chi doveva operare, portando giornalmente cibi e medicine e tutto quanto era necessario per un momento di così grande difficoltà. Ecco, il settore è sicuramente in crisi da tempo. Diciamo che già nella crisi del 2008 noi costruttori abbiamo avuto una crisi molto forte, in 5 anni si erano persi circa il 60% del mercato, abbiamo perso 1,5 miliardi di fatturato all'anno e dopo questa crisi si troviamo veramente in una grandissima difficoltà, perché se già negli ultimi 7-8 mesi il mercato dava dei segni di cedimento, perché negli ultimi mesi, gli ultimi 8 mesi già il mercato aveva perso un 13%, con marzo e aprile abbiamo toccato dei minimi mai successi, meno 40% a marzo e meno 60% ad aprile, e probabilmente maggio sconterà più o meno gli stessi numeri. Quindi noi abbiamo dato una nostra previsione che sull'anno inizialmente pensavamo un meno 30, ma in questo momento abbiamo un'idea sempre peggiore, per cui riteniamo che se in autunno qualcosa si riprenderà, che speriamo, dovremo consultivare almeno un meno 40%. Quindi un dato davvero drammatico anche per quanto riguarda le case costruttrici. Da qualche giorno, anzi da qualche settimana, hanno avuto l'autorizzazione a riaprire anche i concessionari, i dealers, quindi il mercato si sta riavviando anche per il settore dei veicoli pesanti, oltre che per quello dei veicoli leggeri. Qual è la vostra prima sensazione a caldo proprio in questi giorni? Lei usa un termine riprendersi, assolutamente non c'è nessun tipo di ripresa, anzi stiamo aprendo, con i nostri costi. Chiaramente abbiamo tutte le persone che gratamente stanno entrando nelle concessionarie e stanno cominciando a rivisitare quel che si può e secondo le norme la clientela. Noi siamo molto attenti alla sicurezza delle nostre persone, però purtroppo i nostri clienti che sono i trasportatori sono in una crisi veramente incredibile, in quanto al momento stanno godendo di questa moratoria che chiaramente in 6 mesi si esaurirà, quindi tutti i provvedimenti a debito, nessun provvedimento o a fondo perduto o riduzione delle tasse o alcuni provvedimenti che consentono al trasporto già altamente in crisi di riprendersi. Noi stiamo facendo le moratorie tramite le nostre finanziarie che si accolgono lo spostamento dei pagamenti senza nessun tipo di aiuto, e mi chiedo quando i nostri trasportatori, che già hanno un parco circolante molto vecchio, che già in passato non hanno potuto adeguarsi a quello che l'Europa ha potuto fare, quindi un parco circolante che è di circa 13 anni vecchio, inquinante e poco sicuro, mi chiedo come faranno i nostri trasportatori che si troveranno con poco fatturato, con tanti debiti e magari l'opportunità di poterli spostare di 6 anni, come dice la legge, ma con degli interessi dall'1 al 3%, e tutti i nostri trasportatori non hanno dei bilanci così solidi, quindi credo che per lungo tempo acquistare veicoli nuovi sarà veramente dura. Tutto certo. Questo sta mettendo a ferro e fuoco le nostre concessionarie, le nostre vicine, di cui se ne parla molto poco e di cui nessun provvedimento si sta prendendo. Noi case madre ce le mettiamo tutte per aiutarle, ma ricordo che la pandemia è mondiale, quindi le case madre sono tutte già prese dagli investimenti nella tecnologia nuova, nell'elettrico, nei nuovi carburanti alternativi e in quello che sarà il futuro, e quindi in questo momento ad altissimi investimenti non riusciamo ad ottenere nulla che ci possa consentire di far vedere un autunno che non sia veramente molto negativo. Ricordo, e mi scuso che sono un po' lungo, ma che già nella vecchia crisi il settore, diciamo, del veicolo industriale nelle nostre reti abbiamo perso circa il 30% dei concessionari. Figuriamoci cosa può succedere adesso verso ottobre-novembre. Quindi concessionari, parliamo anche di posti di lavoro italiani, quindi sicuramente avrà un riflesso importante anche sulla nostra economia. Un RAE, lo ricordiamo, rappresenta le case costruttrici estere, quindi la quasi totalità delle case impegnate nella costruzione di veicoli commerciali e industriali, ad eccezione dell'italiana Iveco. Qual è la vostra proposta per uscire fuori da questa crisi? Ma noi intanto abbiamo chiesto interventi di breve termine, che sono come per esempio l'aumento del credito d'imposta dal 6 al 12% fino al 2025 in un'unica soluzione, un azzeramento o riduzione delle tasse per le nostre imprese, 12-24 mesi, qualche prestito a lungo termine ma non con interessi, e poi delle garanzie bancarie. Capisco che è molto difficile chiedere tutte queste cose, ma almeno qualcuna di queste cose noi riteniamo che sia giusto farlo. E poi, sperando che il mercato un po' si riprenda, è da una vita che parliamo del parco circolante che è poco sostenibile e poco sicuro, quindi un fondo triennale, non più incentivi di 6 mesi in 6 mesi o di 3 mesi in 3 mesi che non ci consentono di fare le programmazioni, ma era un fondo triennale per il rinnovo del parco circolante con veicoli, agevolando molto l'ingresso di veicoli Euro 6 o ad alimentazione alternativa, sostituendoli con veicoli Euro 5, Euro 4, Euro 3 o Euro 2. Ricordo a tutti che il parco circolante è fatto di 657.000 pezzi, di cui 400.000 sono ancora ante Euro 4. E poi, per chi non avesse magari la possibilità di poter acquistare veicoli nuovi, un bel incentivo sugli usati, perché chi compra un usato Euro 6 e cambia e rottama magari un veicolo di categoria inferiore, può essere l'opportunità di poter continuare ed andare avanti. Fenoglio, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto. Un RAE è intervenuto in queste ore anche su un altro tema centrale, caldo, quello appunto dei meccanici. Proprio ieri, all'interno di una manifestazione, c'è stata una vostra conferenza che ha fatto un po' il punto su questo problema così sentito, cioè la richiesta di manodopera specializzata per questo settore. Sì, diciamo un po' di ottimismo in questo momento così negativo. Noi abbiamo fatto questo tipo di incontro con giovani ragazzi, promosso da Motor Valley, ne avevamo già fatto uno l'anno scorso con Autopromotech, e diciamo che stiamo cercando di spingere i ragazzi a tornare, a venire nel nostro settore. Fare il meccatronico, non più il meccanico, è un bel lavoro, sicuramente noi ne abbiamo bisogno di 5.000 nei prossimi 5 anni, la cosa si sposterà, ma sicuramente nel tempo credo che sia molto importante avvicinarsi, perché il trasporto, come avete visto, non si ferma mai, quindi naturalmente è un settore che dà la possibilità di fare un lavoro vero che dà la possibilità ai giovani di crescere e magari domani di diventare i futuri responsabili di aziende o di concessionarie. Quindi si parte magari da fare il meccatronico, si può avere l'opportunità vera di poter trovare un mestiere che di questi tempi probabilmente sarà veramente dura. Quindi ai giovani gli abbiamo detto: tornate a vedere cos'è il veicolo industriale, pieno di tecnologia, pieno di possibilità, perché chiaramente le officine non sono più come quelle di una volta, certo, ma sono officine molto moderne. Sono decisamente cambiate. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Franco Fenoglio, presidente della sezione veicoli industriali di UNRAE. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.